Arisoni, quando suona la campanella alle 18:30, tu prendi la tua calcolatrice del cazzo, le tue presentazioncine in PowerPoint e ti levi dai coglioni. È chiaro? Arisoni, è diventato vicepresidente, eh? Cruce, è inutile che lei fa il saputello. Lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'ha a fianco. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Parenzo, ti voglio carico! La vecchietta ultra novantenne che viene sfrattata per un vincolo paesaggistico e gli immigrati che fanno come cazzo vogliono. Battisti che viene arrestato, rilasciato, gongola, sorride, brinda. E invece ci sono le leggi contro i fascisti. Italia, paese di merda, mai rubrica fu più azzeccata. Purtroppo oltre merda non c'è un termine più denigratorio, ma magari troviamolo. Che paese di merda! Ne vogliono far diventare tutta africana, ne vogliono far diventare tutta africana meticcia, se parli coi. Gli africani sono africani, cioè sono persone che purtroppo hanno dimostrato di non avere una gran cultura del lavoro, tant'è che vivono nella merda. Cruciani? Ma lo sai che mi eccito ad ascoltare il generale Pappalardo? Parenzo, ma te l'hanno mai detto che assomiglia al buon'anima di Riccardo Schicchi? Minchia, uguale proprio. Questo non ci avevo mai pensato, effettivamente. Una collezione di infamità di lunedì 9 ottobre, quindi buon inizio settimana, alle 18:37, in pochi minuti si sono collezionati e verificati una serie di reati. Io dico e invoco un signore che in questa trasmissione fu protagonista suo malgrado nelle edizioni passate, tal Zucchero, c'era gente che stornellava, cantava appunto, stornellava Zucchero, lalalala, Zucchero, allora? Invoco Zucchero ad aprire illico acqua immediato, che in latino vuol dire immediatamente un fascicolo, per verificare come quei criminali di Raccord & Company commettano sistematicamente diffamazioni e reati. Sì, però in questa la tua somiglianza con il signor Riccardo Schicchi, che non è un'infamità, mi sembra abbastanza accertata. Cioè, è morto Schicchi, per carità, però tu sei identico effettivamente al signor, che era un po' più magro forse, il signor Schicchi, ma non è vero, un po' più alto, un po' più alto Schicchi, sì. Signor Schicchi, Riccardo Schicchi, come sapete, per quelli che non lo sanno, i più giovani, era il manager della signora Mona Pozzi, Cicciolina, eccetera eccetera. David, sì, David, sì. Appunto, esatto, bravo, esatto. Allora, il primo vaffanculo della serata è rivolto a una studiosa americana, una scrittrice che su una prestigiosa rivista che si chiama New Yorker, caspita, si domanda, New York, beh, è meravigliosa, sì, che non è, rivista, che non la conosce nessuno, naturalmente. È una delle, le copertine del New York 90, sono famose, sono delle opere sì, d'arte. È vero, il 99% della popolazione italiana non la conosce questa rivista, il 99% non la conosce. Tu non devi cavalcare l'ignoranza. No, ma io dico, tu devi raccontare il bello, non l'ignoranza. No, sto dicendo, facciamo una sfida. Da qui alla fine di questa trasmissione, no, di quest'anno, raccontiamo il bello. No, ma che raccontiamo il bello. Ma già ci sono tante trasmissioni che raccontano il bello, noi raccontiamo la realtà. Allora, questa rivista sostiene, sì, che in Italia ci sono troppi monumenti fascisti e si domandano perché esistono ancora tanti monumenti fascisti. Giusto? Questi, no, giusto un cazzo. Questi signori sono degli imbecilli, sono dei cretini, degli ignoranti loro che si piccano di scrivere per prestigiose riviste americane. Si devono fare i cazzi loro, abbiamo la nostra storia, i monumenti restano quello che sono, non sono né di destra né di sinistra, sono monumenti che sono stati fatti durante l'epoca fascista, perché all'epoca c'era come dire una architettura di regime. Certamente era un'architettura di regime. Beh, non c'è dubbio, tutti i regimi hanno riempito le piazze, i vicoli, le strade di monumenti e di case, perché era una tipica cosa dei regimi, quella di costruire, no? Di lasciare una traccia. Vai in Corea del Nord, ci sono una marea di immagini, una marea di palazzi, tutti quanti costruiti dai dittatori, tutti quanti in onore dei dittatori. Io non vorrei mai che in un futuro, quando si libererà dalla dittatura, la Corea del Nord abbattesse tutta quella roba lì, perché sono comunque un ricordo delle cose terribili. Dunque gli americani non ci rompessero il cazzo. Gli americani, questa stronza qui, questa scrittrice che scrive sul New York. Allora, Saviano, iniziamo col signor Saviano. Che ti ha fatto adesso, Saviano? Abbiamo bisogno di 1,5 milioni di immigrati. Era ospite di Fazio. Ora, voglio dire, non ci... ovviamente Fazio muto, Cioè, Fazio muto, cioè uno dice, abbiamo bisogno... Sì, però, cioè, Fazio, siccome su Rai 1 potrebbe anche dire, a me non me ne frega niente. Scusi, perché abbiamo bisogno di 1,5 milioni di immigrati? Ci spieghi, c'è gente che la pensa in maniera diversa, che non abbiamo bisogno di 1,5 milioni di immigrati. Esattamente, c'è una parte d'Italia che non la pensa come il signor Saviano, che presenta questa cosa come un dato di fatto su cui non si può discutere. A me le verità, come dire, scolpite, le verità da cui bisogna pendere dalle labbra di Saviano, col cazzo, non è vero che ci servono 1,5 milioni, o comunque c'è gente che non pensa che sia una cosa ineluttabile. Signor Saviano, vai. L'invasione che non esiste, l'Italia è un paese che sta scomparendo, non ci sono più nascite, quindi c'è bisogno nei prossimi 10 anni di oltre 1,5 milioni di migranti qui. Ma chiara che diceva bravo, tu lo dici, bravo. Mi sembra ha fatto un ragionamento, non è che ha espresso un'opinione, mi ma spiego. Sta scomparendo, ma che sono queste cose? L'Italia sta scomparendo. Ma che cazzo vuol dire? Se tu viaggiassi un po', scopriresti ad esempio che gli Stati Uniti sono diventati grandi grazie all'immigrazione. C'è un signore che si chiama Rudy Giuliani, che è stato anche sindaco della Big Apple. Giuliani ha un cognome tipicamente italiano, ma non ce l'avevamo accorto. Non me ne ero accorto, lo sai, pensavo fosse coreano. Pensavo fosse coreano, signor Giuliani. Nessuno in Italia sa che sono Giuliani di origine italiana. Però vedi, se tu dici le cose, mettimi la musica di Porta a Porta sotto. Se tu dici le cose in modo anche autorevole, banalità sconcertanti, ma dette in un mettimi la musica di Porta a Porta. Rudy Giuliani, grande sindaco di New York, di origini evidentemente italiane. Vedi, assume tutto un aspetto diverso. È vero. Se tu invece metti questa musica rock, uno che dice scoreggio, chiama una puttana, chiama un trans. Se dici Giuliani di origine italiana, sei un coglione. Effettivamente, sei un coglione. Che è così. Però se tu questo lo condisci in modo un po' autorevole, con una musica sotto diversa, devo darti ragione. Allora, un altro campione del mondo, oltre a Saviano, che dice che è ineluttabile ricevere 1,5 milioni di immigrati, cosa che non è dimostrata da nessuna parte, non so da quali studi. Demografi, ci sono demografi che dicono la cosa opposta. Allora, c'è la questione dell'architetto Renzo Piano. L'architetto Renzo Piano, come sapete, ha costruito questo palazzo dove io in questo momento risiedo, dove svolgo il mio lavoro, che è un palazzo, devo dire la verità, di una bellezza pazzesca. Cioè un posto dove si lavora in maniera meravigliosa, costruito per lavorare in maniera ineccepibile. Costa un po' troppo, però questo è un altro discorso. Ci costa a noi qui un po' troppo. Beh, amico mio, costa un sacco di soldi sto palazzo. Affittare questo building. C'è gente che viene apposta a Milano solo per vedere quel palazzo. Paghiamo tanto l'affitto per gustarci il posto. C'è un turismo che tu ovviamente non frequenti, perché l'unico turismo che tu frequenti è quello sessuale, ma c'è invece anche un turismo cosiddetto architettonico. Allora facciamo pagare biglietto per entrare, sarebbe ottimo. Allora, la questione è molto semplice. Renzo Piano dice che vuole fare lo sciopero. Io vado ai matti per questa cosa. Lo sciopero della fame a staffetta mi fa andare al manicomio. Lo farò anch'io. Vado ai pazzi. Cioè, mentre ci sono delle situazioni pazzesche, mentre la signora Giuseppina viene cacciata da casa a 95 anni, costretta in un container, ci fosse un cazzo di ministro, ci fosse un politico, un Manconi, un Parenzo. T'ho messo in mezzo ai politici. Un Manconi, un Parenzo, un altro che si mettesse, un Del Rio, che si mettessero a fare lo sciopero della fame fino a quando la signora Peppina non torna nella sua Giuseppina. Ma Manconi è presidente della commissione dei diritti umani. Giuseppina cacciata vita e questi si mettono a fare lo sciopero della fame. Ma non è una cosa alternativa all'altra. Il signor Renzo Piano innanzitutto ci dovrebbe spiegare ancora perché ha accettato di fare il senatore a vita. Invece di dare il suo stipendio ai giovani architetti nel suo studio, quello là, la camera che ha approntato, desse il suo stipendio ai profughi, a gruppi di profughi. Desse il suo stipendio ai profughi, dato che fa lo sciopero della fame sullo Ius Soli. Lo sciopero della fame a staffetta annunciato da Del Rio alla Fiera del Tartufo. C'è anche una specie di legge del contrappasso. Vabbè, è una ridicolaggine, lo sai, no? Annunciato. C'era lì in visita. Ma cosa c'entra? Ti prego, ma non guarda, vado ai matti su questa cosa, va sbrocco su questa cosa qua. Dello sciopero della fame mi fa sbroccare. Ma a staffetta perché? Mi fa fai sbroccare. Male, fallo anche Pannella tu. Si rivolta nella tomba, no, l'ho già detto e lo ripeto. Lui. Li ha fatti anche si lui, rivolta nella tomba, vergogna. Li ha fatti anche lui gli scioperi della fame a staffetta. Ma li no, faceva per anche l'oggetto lui. Della discussione. Lanciava dai, i grandi su. Satyagrah radicali. Fammi sentire Sgarbi su Giuseppina, dai, che top assoluto. Sgarbi su Giuseppina. Giuseppina Fattori, terremotata di San Martino di Fiastra. Allora, un cittadino terremotato è più cittadino di un altro, perché il cittadino ha i diritti che gli vengono concessi da un potere cieco e poi ha la sua vita e vive, alla fine cerca perfino di trovare degli espedienti per non essere oppresso da uno Stato che gli rompe i coglioni con l'autovelo, con il tutor, con la patente a punti, col vaffanculo, gli rompono i coglioni in tutti i modi. Poi sei terremotato. Ti mandano un container di merda dopo 8 mesi e intanto sei accampato non so dove cazzo di buco di culo, ma sei un cittadino italiano, porca puttana! Sei una cittadina di 95 anni, porca puttana! Hai l'età di mio padre che fortunatamente sta a casa e non è arrivato il terremoto. Ti arriva il terremoto, invece di avere qualche garanzia, arrivano dei cazzi di rompicoglioni che non sono dei delinquenti, ma lo Stato. Ti sfrattano dalla casa che non hai, porca puttana. Cosa c'avete stasera? Non vi siete manco fatti una seghetta che siete tutti nervosi? La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 71701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Patrucia, ti volevo dire che anche io faccio lo sciopero della fame a staffetta. Tutte le sere, tra le 11 di sera e le 7 e mezza di mattina. Ci stanno veramente a te per culo questi. Dai, continuiamo con Sgarbone, dai. Sgarbone su la Giuseppina. Gente è stupida, però proprio shock. Sgarbone anche in giro iniziative per ma sensibilizzare ogni le istituzioni. Ogni iniziativa viene giudicata rispetto anche alla situazione che c'è nel paese. Ma cosa vuol dire? Questa qua viene percepita ed è un autogol clamoroso dei tuoi è amici della sinistra. È un'emergenza lo Ius Soli. Detto, no, ma non è un'emergenza. Non è amici o non amici. Nessuno ha diritti non meno. Non si capisce perché devono votare gli italiani che da 30 anni risiedono negli Stati Uniti. Ma quello è un altro discorso. Non c'entra niente. È un'emergenza democratica. Ma quale questa emergenza è una democratica? Emergenza ma non democratica. Dire cazzate, dai. Dare immediatamente diritti ma qua non a persone niente. Che qua nate nessuno sono meno diritti. A persone che qua sono andate che a scuola. La cittadinanza, peraltro, bisogna dare la cittadinanza europea, ma l'Italia deve scomparire. Vabbè, per me, come ti ho detto. Stai delirando, Sgarbone, dai. Che cazzo parla il Papa mentre gli uomini sono abbandonati in questo modo? Parli contro uno Stato di merda che caccia una signora di 95 anni da casa sua. E allora, tanto non si capisce bene, ma perché il Papa non accoglie in Vaticano tutti quei bellissimi spazi che ha, posti meravigliosi, e tutti questi profughi disperati? Cominciamo a partire dall'idea che chi difende i profughi un pochino li accolga, un pochino, e quelli che non sono profughi che vanno a votare sono peggio dei profughi, hanno bisogno di maggior soccorso e di maggiore aiuto perché hanno perso la loro casa. Questo è molto crucianiano in questo caso, eh? Il Papa accolga i profughi in questi spazi enormi del Vaticano. Cominciassero ad accogliere in quei giardini. Cosa cazzo servono i giardini? Ma io non ho capito, ma se a parte che sono facessero una tendopoli permanente, una cioè tendopoli, emergenza nel paese, ragione, tendopoli quello, dentro il Vaticano. Ma quello è il princeps, è il principe della basta Chiesa. Basta con questa ipocrisia, ma non il me ne frega Papa un cazzo. È il principe lo sai della che Chiesa. La mia risposta è che non me ne frega un cazzo. Accogliessero, facessero una, siccome si occupano dei migranti, giustamente la Chiesa dei Popoli, facessero una tendopoli nei giardini del Vaticano, una bellissima tendopoli. Di essere un grande segno, un grande segnale a tutto il mondo della Chiesa dei Poveri. Così si parlano le cose, non solamente con l'accoglienza sparsa, sì, certo, tutta la Caritas e tutte le altre cose, per carità. I sigilli del buco del culo, senti. La madre, l'hanno invitato Giuseppina, qui è la figlia che parla, a lasciare l'abitazione. L'abitazione che non c'è, cioè a lasciare l'abitazione terremotata, cioè lasciare un cazzo. E hanno messo i sigilli, se ne devono mettere del buco nel culo i sigilli, porca puttana. Cioè, beh, volete prendere per il culo, ma io vi mangio il cuore. Lasciatela lì, non rompete il cazzo, porca puttana. Il potere, parlo col ministro, parlo con Gentiloni, parlo con la De Michele, quella che si occupa della ricostruzione, serve a rendere felici gli uomini, altrimenti perché uno deve avere il potere? Per dire no, ma c'è il cavillo tale, no, ma guarda che abbiamo già dato un permesso contro, no, ma che cazzo di permessi? Revocate i permessi che fanno distruggere le opere straordinarie e lasciate Giuseppina nella sua casa di legno che non rompe i coglioni a nessuno, carabinieri forestali. Beh ragazzi, dai, su, ma ha ragione Sgarbone, dai, ha ragione Sgarbone al 100%, dai, sì, non tecnicamente c'è dubbio, ha ragione, dai, sicuramente, dai, tecnicamente ha ragione Sgarbone, lui, dai, dopodiché lì e ci fanno sono... lo sciopero della fame sullo Ius Soli. Ma cosa lo sciopero della questo? Fame sullo Ius Soli mentre Giuseppina viene sfrattata. Ma che vuol siete dire una ma vergogna. Sei una izza, ma siete chi siete sei una vergogna, tu sei e il tuo amico Manconi siete una vergogna, sei una izza popolo, sei una izza popolo, anche per giunta involuto, perché sei involuto, sei che vuol dire, come qualcuno ti ha detto oggi in una trasmissione televisiva, sei no. Involuto. No, no, non è ti ha detto? Cosa ti hanno detto oggi? Era uno dei ti MDP. Ho visto, sai. Sì. MDP, che cosa significa MDP? Non ho capito. MDP significa double penetration. MDP che significa? MDP. MDP, che vuol dire? Movimento MDP? Donne Parenziane. Beh, MDP, Movimento Donne Parenziane. Ragazzi, una cosa veramente incredibile. Sai che non un lo signore so che si chiama l'acronimo MDP? Io non lo so, non mi interessa sapere, non lo voglio sapere. Signor Scotto mi ha detto sei limitato perché io non capivo. Ecco, sei limitato. Potete isolare, caro la Corte. Ma è già isolato. Dopo l'audio è già in cui isolato. Dice sei solo sei limitato. Ma è già isolato, non ti preoccupare. Luca da Modena. Proprio. Luca da Modena. A ritrecine. Ciao. Dimmi, sono dimmi. Luca Dell'Etame e intervengo per la faccenda dello sciopero della fame a staffetta. Che cosa sei, Luca Dell'Etame? Quello dell'Etame alla banca. Io oh, che ne so, io, amico mio. Quel Luca, ma è quello che delle... mi piace sulla Gazzetta di Mantova. Allora, ti voglio dire questo. Penso dimmi. Che per come è fatto sia fatto apposta per trovare le persone mentre cercano qualcosa per metterci in quel posto e comunque lo apprezzo che finalmente l'indignazione che ne deriva aiuterà a capire che ci abbiamo al governo. Quindi vediamo questo lato positivo in questa puttanata pazzesca dello sciopero della fame a staffetta. Ciao Massimo da Milano, vai Massimo. Massimo, dimmi Massimo, dimmi. Allora, per intanto un superbo Cruciani, uomo libero, altro che involuto, superbo uomo libero. Vabbè, dai, vai avanti, e, non, dai. E non schiavo come l'amico razzistello che ha lì di fianco. Beh, schiavo, io, adesso, razzista, è da venerdì che sto facendo, è da venerdì che sto facendo lo sciopero naturale da quando ho sentito che Parenzo vuol fare lo sciopero a staffetta. No, lei da venerdì, no. Lei da venerdì ha interrotto i farmaci e questi sono i risultati che lunedì già chiama, quindi ecco, questo Parenzo, è vede, questo è il suo razzismo. Esatto. Lei, no, non è razzismo. Lei, a parte che vive nel 5700 e ci credo 78. Perché lei è molto avanti. 5778 è la data del calendario ebraico. Se lei vuol fare ironia avanti. Anche su questo, questa, anche su questo, questa, farla, questa per carità. 5.000, dalla creazione del mondo, certo. Lei ha il io vivo nel 5.778. Lei faccia quello che vuole, cosa me ne frega a me? Che io abbia mai conosciuto nella mia vita, pronto a giudicare chiunque. Io, querelo, io vado a prendere i pacchetti porta a porta. Non io la polizia, faccio, porta a porta, casa per casa. Allora, è stata una cosa: la storia insegna che con cosa? Il Kosovo ha chiamato un signore nigeriano venerdì. Vabbè, che cosa insegna la storia, amico mio? Dai, cosa insegna? Prima di tutto, riguardo ai vari tipi di che? Come si chiamano? Di sì, che? Adesso monumenti che ci sono. No, vabbè, allora le persone della sono come della memoria. Le persone sono come i popoli. Chi cancella i propri errori non potrà mai migliorare. Vabbè. Troppo complicato, dice? Amico mio, non ci abbiamo tempo. Arrivederci, ciao. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta La Zanzara. Vai tu, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024. Oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi. Coppa WhatsApp 393 71 71 701. E quindi in segno del mio sacro patto con l'unico vero Dio, in questo giorno io circonciderò la carne del mio pene. E del tuo, e del tuo, e del tuo, e di ogni maschio che dimori da queste parti. Scusami, non so che cosa vuoi dire. Che afferreremo il prepuzio del nostro pene e da esso taglieremo tutta la carne superflua. Amen. Io non ho niente di superfluo. Non ci potremmo bucare le orecchie, magari? No, no, no, no. Così è stato scritto e così sarà fatto. Aspetta, fammi capire. Tu stai dicendo che hai troppo uccello? Senti, Abby, è stata una giornataccia, abbiamo tutti bevuto un sacco. Questa cosa del prepuzio sembra una buona idea adesso. Ma è meglio se ci dormi sopra. Ce lo possiamo sempre tagliare domani. Ma se lo facciamo adesso, chi è che ce lo riappiccica domani? No, no, no, no, fidatevi. Avrà un look molto, molto aerodinamico. Diventerà trendy. Vado a prendere il coltello buono. Aspettatemi qui, torno subito a tagliarvi il pene. Uno che nel 2017 dice sono nell'anno 5778, esattamente l'anno della creazione del mondo. Cioè quando si sa che la Terra ha più di 4 miliardi di anni, quasi 4 miliardi e mezzo di anni. Cioè, che differenza c'è tra Parenzo e il mago Telma? Ditemelo voi. Cruciani, io sono stato circonciso da bambino, adesso non solo regolo l'orgasmo, ce l'ho differenziato, mi esplode quando dico io, siamo al top. Mio, il mago Telma, il mago io, Telma. Io non posso, capisci che però non posso mettermi a dialogare o a rispondere a questi poveretti. Ma perché? Su temi che attengono alla sensibilità secolare di un popolo. Cioè, capisci, quel film lì, che film era peraltro? Perché la mia cultura, vasta cultura cinematografica, è caduta su questo film. Che film era questo? Solo per curiosità, Credo il titolo sia Anno 1. Credo il titolo sia Anno 1. Comunque, non l'ho visto. Stupendo, stupendo. Mi sono arrivati una marea di messaggi su questa cosa della circoncisione. Le persone sono molto sensibili, come è evidente, naturalmente. Le persone sono dei maiali. La sensibilità. Le persone che non che riguarda che chiamano questa radio, pene, questa fascia oraria, sono dei maiali. Ma non è vero, saputo, non è vero. Comunque, ragazzi, fate quello che volete. 5778. L'ho fatto anche ai miei figli maschi, ovviamente. A che cosa? È una la cerimonia del Brit Milah, si chiama, perché in ebraico, cioè, Brit Milah. Hai tagliato Milah il cazzo ai tuoi figli già? Tanto non hanno, loro hanno il pene. Se hai mai tagliato il pene ai tuoi figli già? Certo, è stata una cerimonia. Uno alla di quale, tre, mi spiace, l'altro di uno e mezzo. Ti avevo anche invitato a una delle due cerimonie, ma che peraltto. Sei non matto, sei voluto venire. Ma è come l'infibulazione, che sei impazzito. C'erano amici carissimi. È venuto Giuliano Ferrara. Giuliano Ferrara è venuto. Allora, diglielo, Giuliano Ferrara è venuto alla cerimonia. Io non taglierei mai il pisello. È venuto figlio, a questa scusa. Cerimonia straordinaria. Vabbè, è rimasto colpitissimo. Un sacco di amici sono venuti. Ti avevo invitato anche a te. Non sei voluto venire. Hai fatto una affronto alla mia famiglia e non è la prima volta. Sì, rimaniamo colleghi. Sì, hai fatto un affronto. Io ti avevo invitato a una cosa mia, bella, particolare da condividere. Non sei venuto. Non sei venuto. Hai fatto un affronto che a casa mia rimane scritto nero su bianco e ora prendi pure in giro una tradizione che dal 5778 viene proposta. Per fortuna me lo posso permettere. Io ho tanti amici perché tanto mi abbraccio e mi dicono: ma come fai con quello là? E dico: guarda, adesso ci pensiamo noi. Gli amici del Mossad penseranno a te prima o poi. No, ci pensiamo noi. Di no, il tuo nome è sulla lista. Ma no. Sei considerato un nemico del popolo ebraico. No, questo non è possibile. Te lo dico io. Questo francamente con non le è cose che dici, se dici la circoncisione non è una mutilazione genitale. Ma non è lo una, è una se mutilazione. Sei un nemico. Che sia una mutilazione un non c'è dubbio. Io oggi ti dichiaro nemico del popolo ebraico da oggi. Poi sono fatti tuoi. Mi fai un torto pazzesco perché non è così. Fai tu. Poi vabbè, tu sai che nelle prossime settimane incontrerò anche a New York il signor Soros, di cui parleremo però più avanti, perché sì, lo incontrerò. Meglio. Più avanti parleremo anche di questo. Sì. Di quel no, grande però devo dirti una cosa, Soros. Circonciso pure lui. Vai, sti cazzi che c'è conciso Soros, c'è pure questa Soros. Devo dirti una cosa che riguarda il signor Camilleri, ragazzi miei, signor Camilleri. anche lui considerato uno dei grandi pensatori di questo paese. Quando parla Camilleri, chissà perché, poi è un romanziere di successo, di grande successo, uno sceneggiatore. Perché è un metro a passo, è uno ascoltato, un intellettuale. Non è Mauro. Io vorrei capire, non so, non lo so. È un intellettuale. Comincia ad ascoltare le persone intelligenti. Ma quando è uscito dall'Italia, dalla Sicilia, signor Camilleri, quando è sortito dal paese dove abita in Sicilia, perché è un sociologo? Perché dispensa? Conosco più io degli italiani del signor Camilleri. Questo non c'è dubbio. La gente che chiama, uno spaccato di tale importante, eccetera. Sicuramente la Zanzara è molto più a conoscenza della realtà italiana di quanto non sia Camilleri, il quale non esce dalla terra sicula non so da quanto tempo, fino a prova contraria. Eppure dice che gli italiani non sono brava gente, sono razzisti. Ma ora io dico, ma chi cazzo te lo ha detto che sono razzisti gli italiani? Ma cosa dici? Bisogna anche colpire questi sepolcri imbiancati ogni tanto, non bisogna solo lisciare il pelo perché uno è un bravo romanziere e ha inventato il personaggio di Montalbano. Noi qui, posto libero, ce ne sbattiamo i coglioni di lisciare il pelo ai vari Camilleri, eccetera, eccetera, e compagnia cantante. Non lisciare il pelo a nessuno, tu lisci il pelo a quei miserabili che chiamano solo, a quegli schifosi, a quegli ignoranti. Sì, hai reso dei trogloditi persone che hanno il diritto di parola. Questa è la tua colpa. Questi trogloditi che pontificano su tutto. Questo è un altro discorso. Viva Camilleri, ascoltalo di più Camilleri, leggilo, ascoltalo, magari ti apre la mente. È una vergogna non approvare lo Ius Soli. Noi italiani siamo razzisti. A parte che razzisti lo dice tua sorella. Mi scrive Dino Giarrusso giustamente, che dice, spiega a Cruciani che Camilleri vive da secoli in via a Roma, insomma, a Prati, a Roma. A Roma, sì, eccetera. Non so, appunto, non è uscito dalla sua casa a Roma, da Prati, e prima in Sicilia. Non penso che sia andato nelle periferie a fare un'indagine sociologica sugli italiani. Chiaro? Tu sei mai stato in periferia? Ma tu quando mai sei andato in periferia? Che passi le serate con i nobili di Milano? Quale periferia hai visto tu? In televisione a Quinta Colonna hai visto le periferie? Dai Camilleri, dai. Vergognati, populista. Lo Ius Soli è una vergogna che non sia stato approvato, che venga rimandato. Questa è un'altra vergogna della politica di oggi. Noi italiani siamo razzisti, ma perché non lo vogliamo dire? Mamma mia ragazzi, mamma mia, sicuramente della sua lucidità ha dato una ha fatto una doccia fredda a tutti noi. Dovrebbe farci riflettere questa cosa. Gli italiani siamo razzisti. Che è una frase del cazzo, diciamola. Ci sono i sepolcri imbiancati, bisogna un po', no? Bisogna un po' ogni tanto bisogna imbrattarli un po' questi sepolcri biancati. Solo, io tutti userei un'altra espressione, tutti se a mi permetti. Sentire, no, lì un signore di 91 anni che ci dice italiani non è brava gente. Tanto hai rispetto siamo per la nonnina di 95 anni frattata, tanto disprezzi un intellettuale del calibro di Camilleri. Nessuno, io sto e non c'è razzismo, quello c'è quello che Manconi chiama il razzismo della bonomia. Rocco da Roma. Ancora questo Manconi, ma che sei il suo press agent? Che sei il suo agente stampa? Non ha bisogno. Il razzismo della bonomia è un bellissimo concetto, se vuoi ne parliamo. Si chiama il razzismo della bonomia. C'è quel modo un po'. Volevo parlare sull'affermazione che 1,5 milioni di africani salverebbero l'Italia dal rischio dell'estinzione. Per salvarci dobbiamo aspettare 1,5 milioni di persone. Questo lo dicono i demografi, però. Scusami, demografi, me ne sbatto i coglioni dei demografi. Ma i demografi, ma che cazzo me ne frega dei demografi? Lo dicono i demografi. E sti cazzi hanno detto una serie di minchiate nella storia. Gli economisti, i demografi, cioè chi devo dare retta ai demografi? Distrugge tutto. E poi invece da retta a quei quattro miserabili straccioni che telefonano qui. C'era uno, signori, no, poi mi taccio. C'era uno che qui cambiava cellulare pur di telefonare, un malato di mente che cambiava il numero pur di telefonare. Vabbè, sempre Rocco, che un povero imbecille che è stato fatto diventare un trasmissione. Ha abbassato il telefono Rocco, adesso ha abbassato il telefono, avanti a Francesco da Torino, dai Francesco, fallo parlare. Ciao, dai, Francesco, sei pronto? Ciao, sono uno dei miserabili che Parenzo disprezza tanto e volevo parlare del Solis. Innanzitutto il Solis sarà la nostra rovina. Sarà la nostra rovina, questo l'ha affermato anche il professor Sartori. Il professor Sartori, che penso che sicuramente ne sa più di me, caro Parenzo, e anche di te. Quindi non penso che sia uno stupido o un deficiente. No, lo lessi quell'articolo, certo. E quindi, non mi convinceva. E poi? Non ti convincerà, però innanzitutto poi queste persone qua, ve lo dico un'altra cosa importante, che non scappano assolutamente dalla guerra, ma bensì perché si annoiano, perché non sanno che cosa fare in Africa, perché l'Africa è ricchissima, la Nigeria è il più Scappano per noia, no? Perché sono dei coglioni, perché sono dei deficienti. È questo. No, non sono analista, c'è un professor Parento, prima di parlare, aspetta un attimo. Hai detto scappano perché sono dei coglioni, pure questo mi sembra un po' riduttivo. Sì, sì, sì. No, scappano perché cercano un posto nuovo dove vivere, perché un posto nuovo dove non ci sono più opportunità. C'è una, non c'è tutti una, per la fame, non tutti per la fame. Mangiare molti mangiano, dai, non dire cazzate. Per la fame. La professoressa Anna Bona, sì, la conosco. Ecco, che ha stabilito, che ha detto: no, questi signori qua, per carità, non sicuramente non è che se la passino benissimo in Africa, ok, ma non è vero che vabbè, proprio allora? Cioè, allora quindi allora ti devi fermare, fermo. Senta, lei lo sa dire pene o sa dire solo le chiedo scusa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Parenzo, non dire cazzate, io da quando mi sono operato l'addo cazzo dici te, non godo più, non sento più, quindi non ve fate la circoncisione, se no non scopate più, non godete più, non sentite più niente e siete costretti a stare sempre senza profilattico, capito? Bacio! Io sono sicurissima che tu, come ti fai una scopata con me, sparisci. Non so, questa è una voce che è arrivata e esplosa all'improvviso. Chiudiamo sta conversazione su questo tema, perché veramente o mi costringete, forse non escludo che lo faccia, di portare le prove di tutte le persone che, come dire, possono confermare la bellezza della circoncisione, ma non credo che sia questo il consesso del quale farlo. No, assolutamente lo è. Oppure tacciate per sempre, state zitti, che non sapete niente, dovete essere ignoranti. Allora, appena è finita la trasmissione, andate su internet e cercate la parola Brit Milà, che è anche bella la storia. Brit vuol dire patto. Vabbè. Il patto Brit Milà, la cerimonia della circoncisione. Una cerimonia straordinaria che praticamente sigla il patto tra il bambino e il popolo ebraico. Ma può essere una cosa del 2017, questa roba qua è 2017, vabbè, 1778 sicuramente sì. Allora, è una grande tradizione. Ragazzi, quello che appare chiaro è che i principali media italiani, moltissimi organi di stampa, si occupano di una cosa di cui la gente non fotte una mazza: le diatribe all'interno della sinistra italiana, le lotte tra il signor Pisapia, ex sindaco di Milano, ed MDP, le lotte all'interno della sinistra bersaniana e quell'altra che invece vuole dialogare con Renzi. Beh, poi c'è, ragazzi, anche Civati con Possibile, no? È un mondo finito, è un mondo di morti. Siete morti che camminano, non frega niente a nessuno, vi state suicidando. Abbiamo fatto una bella discussione di merito sui punti fondamentali della nostra agenda politica. E sti cazzi! Noi vogliamo costruire un campo largo. E sti cazzi! Il problema è che senza una ricomposizione di questo campo e senza una unità ritrovata, rinnovata della sinistra e del centro-sinistra, purtroppo vince la destra. E sti cazzi! Io penso che dobbiamo partire subito. È molto tardi. Se andiamo avanti ancora qualche settimana di convegni, di riflessioni, perdiamo una grandissima occasione. E sti cazzi! Quando la sinistra sacrifica tutta la governabilità, la sinistra prende dei colpi esiziali. La sinistra ha bisogno anche di portare nel Parlamento del Paese la sua visione. E sti cazzi! Non ho sentito bene! Sono stato troppo duro, caro Parenzo. Mi pare un po' ingeneroso, però questa volta devo darti ragione. Non c'era D'Alema, non c'era D'Alema. Questa volta devo darti ragione, insomma, rende un po' l'idea di questo popolo di sinistra che è un po' spaesato di fronte a Donato questa. Donato da Varese, eccolo qua, è tornato. Dov'è? Già chiamato, Donato. È tornato. Vai, Donato, dimmi. Finalmente. Allora, io sai che, come sempre, tu sai bene che io vorrei parlare di tutto, sto alla fine non parlo di un cazzo. Ma non è vero, non pare di un cazzo, adesso non esageriamo, vai. Allora, io siccome che adesso, pago il canone Rai, no? Abbiamo visto Rai 3 che purtroppo è diventata Rai 1. Sì. Che faccio, tu sai dove lo metterei a faccia, no? Con tutta quella ciurma di sporchi sinistri, tutta quella quell'immondezzaio di artisti falsi, ipocriti, degli Giuda Iscarioti del terzo millennio, in quella Rai, in quella Rai di Fazio, che stipendono, so, mi sembra 400.000 euro l'anno. Beh, di più. 400.000 euro di più, di più. Allora, Fazio, ti voglio segnalare molto di più. Sì, Fazio prende 1.800.000 No, no, l'anno mi sembra l'anno. No, allora, di più, comunque, per me 400.000 per me sono una cifra infinita. Comunque, poi ha invitato quel porco di, sai, quel porco di Saviano, no? Sì, io voglio sapere, Saviano, che autorevolezza, che schifo sta persona, chi gli dà l'autorevolezza di il porco razzista. Il mondo, Saviano, ma chi? Come si permette di chiamare noi razzisti? No, quello è loro altro. Che si sono, quello è, loro quello che era, si sono trincerati in una Rai, in una Rai che è anche mia, per ma dire quel figlio di puttana che mi denuncia, che l'Italia avrebbe bisogno, ha bisogno, ma questo è un però. Milione e mezzo di africani, immigrati, un milione e mezzo di africani, portatemi qui a mio cospetto, Saviano, gli devo fare vomitare il sangue dalla bocca per quelle cazzate che dice. Questo violenta, dai, pazzo, basta. Aspetto violento, la sua querela. Questo anticristo, questo anti-italiano. Per quante valora. Ma è terribile, comunque è sconcertante. Allora, ormai, come si chiama? Questo Saviano. Questo Saviano è sconcertante. Poi parla da solo, parte. Ma lui, Saviano, dovrebbe essere? Non questo imbecille che parla. Dovrebbe interdetto, essere? Dice. Vabbè, interdetto. Adesso, perché interdetto? Scusa, Donato, dimmi. Saviano dovrebbe essere trattato come una persona normale. E noi, uno degli altri, insieme a questa merda qui, mentre questa merda qui, so che devo dire, è uno. Che devo dire, un virus sporco. Ma che li è a soldo dei potenti. Allora, quest'Italia, carissimo Giuseppe Cruciani, dimmi. Che io ancora per l'ennesima volta io devo elogiarti, come tu sia l'unico giornalista in Italia, che pur soffrendo e combattuto, ma che soffre? Stai portando avanti il nome della nostra identità. Ascoltate un po' Radio 1, che io pago una radio di prezzo. Di prezzenti! Radio 2, una radio di schifosi. Allora, la sinistra che parla di abbattere i muri, abbattessero i muri dentro i quali si sono recintati. Rai 1, Rai 2, Rai 3, la 7, la 7, quel mondo sporco di sinistra. Non glielo permetto. Lamentabile, che cazzo fa lì? Vada a guardare la sette. Vada a accudire i suoi figli. Non può essere all'altezza di una biflora di metterli a parlare di problemi che stanno portando alla distruzione di questa Italia. Cioè, tu dici chi è che contribuisce? Cairo? Sì, scusami, Cairo contribuisce alla distruzione di questa Italia, dici? Cairo, non glielo consento questo. Ma Cairo dovrebbe chiudere la sette. Ma tu devi chiuderti il cervello, stupido. Tu sei stufo. Tu la sette. Tu fomenti odio. Questa trasmissione fomenta odio. Quei porchi scraziati. Quei poveri, il pubblico dietro, avete mai visto? Quando arriva uno di destra un applauso. Appena sento una cacata, una flautolenza di una merda razzista di sinistra applauso. È una trasmissione corrotta nelle sue radici. Ma chi? Cosa dice? Deve essere chiusa. Di chi sta parlando? Di chi? Ma chi? Quale trasmissione? Cosa? Quale trasmissione? Ma non sa neanche la lui, trasmissione che conduce Mista. Chi? Merlino, c'è Merlino, veramente questo è stupido proprio. La signora Merlino. Quel bravissimo Andrea Camilleri. Con quelle cazzate lì. Che vergogna che sta persona, schifoso sei. Comunque sono tutti meriti questi. E non le cazzate che ci stanno prendendo i coglioni. Non sulla 7. Non sul Telemonte Cacca televisione di 2. Rai 1, il razzista Camilleri, lo sporco razzista, ma guarda che questo qua veramente, ma qualcuno, ma perché non l'hanno denunciato ancora? Perché non lo fermano? Ma perché non lo fermano questo pazzo? È pazzo! Fermatelo! Che sono razzisti! Sì. Ma no, sei schifoso, sei matto, sono razzista! Quell'orco infido, quel dell'orco infido. Infido, orco infido. Ma no, chi è? Camilleri, orco infido. Sì, no, hai sbagliato l'accento, sì. Tutto scusami, sbagliato, ma non importa. Ma lo sciopero, lei è lo sciopero della fame, non dici niente, lo sciopero della fame, non dici ecco nulla. L'altro che lo istiga. Sì, lo sciopero. Quelli che stanno facendo lo sciopero della fame, sì. Io veramente vorrei che il loro appetito si bloccasse, sì. E non potessero mangiare per 30 minuti, una malattia. Una malattia brutta. Questa è brutta della morte. Perché quelli non sono politici. Questo è brutto. Quelli sono i nostri condottieri. Sì. Quelle è un quelle. Guarda, Giuseppe. Dimmi, che piace. Ma perché non sta mai male, però? Perché lui quando fa ste robe che stai uccidendo. Ci stanno uccidendo. A me io so, sai che c'ho qualche milione di persone che mi stanno. Ma di più di un milione. Quanto c'è? Quanti? Stanno morendo di fame. Ah. Ma chi? In Italia, gli italiani. Ma cosa dice? E questi pensano agli stranieri. La televisione impestata di sporchi africani falliti di merda. Ma il contrario, a me è esattamente il contrario. Falliti. Ma qualcuno lo prende, però qualcuno lo deve fermare. Cruciani, qualcuno lo deve fermare questo qua. Se invece li prende a sé con noi, sì. Dovrebbero prendersi con i loro dittatori presunti. Questo è vero, questo qua Gino Strada. Sì, Gino Strada. Che ha fatto, ecco, che ha fatto Gino Strada? Che ha fatto adesso? Pure Gino Strada. Che ecco un altro. Gino Strada. Che ha fatto? È un grandissimo cornuto. Ma io mi auguro. Ma tutta questa gente, ce ne sarà uno che gli porta via qualunque cosa a questo qua? Ci sarà qualcuno che lo pela e lo mette a starsene zitto? Lasciasse quei ferri chirurgici che ci ha lasciato 20 anni fa, smettesse di guadagnare tanti soldi. Ma chi? In nome di una finta immigrazione. Ci lo sta anche di un atto che dovrebbe morire in galera. Ma uno può augurare queste cose? Ma questo pazzo, ma distruggendo la povera Italia. Va bene. Grazie Donato, comunque, a presto, ciao. E quello gli dice grazie, ciao, pure. Ciao. Abbiamo trasmesso lo hate speech, così si chiamano, no? Gli hate speech. Beh, così sono gli hate speech. Non è uno speech. Sì, uno speech. Speech dell'odio, è uno dei certo. Predicatori, uno dei predicatori. Ma magari lo fosse, non è un predicatore, con è un pazzo. Con milioni di. Milioni di persone al suo seguito. Ma quale milione? Ma che tu seguito? Tu preferisci Donato o Mauro? Dimmi la verità, dimmi la sincera verità. No, Donato, io vorrei o Mauro? Una radio in cui ci fossero degli speech di intellettuali, no. Cioè vorrei confrontarmi con gente che ne sa più di me, non con degli imbecilli. Questo, il livello culturale sarà sempre più basso, perché noi proponiamo, noi, tu proponi questa gentaglia qua, e allora si alimentano tra di loro. Perché chi ascolta, che prima si vergognava di intervenire, dice: beh, ma sei intervenuto quello, mi sento autorizzato a dire qualunque fermo. Cosa anch'io. E se pensi, caro il mio coglione, di usare i vocalist che faccio, ti sei già sbagliato. Vocalist, ti attacchi al cazzo, coglione. Pronto! La zanzara. Allora ragazzi, Giuseppina ha resistito al terremoto, ma non alla burocrazia italiana. 95 anni la sfrattano. Politici digiurano per lo Ius Soli. Nessuno ha fatto nulla per fermare la macchina infernale della burocrazia che l'ha spedita fuori da casa per andare in un container di 10 metri quadrati. Giuseppina, vicino Macerata, dov'è? Nelle Marche, no? Chiamiamola la figlia, perché lei non si può più chiamare, perché non c'ha più telefono fisso. La figlia, che si chiama Gabriella Turchetti, se non sbaglio, vai. Pronto? Gabriella? Sì? Sì, buonasera, Radio 24, salve. Radio 24, buonasera. Come sta? Come sto? No, soprattutto come sta sua madre? Mia mamma sta nel container, quindi non è contenta, è piuttosto arrabbiata. Sì, ma il container, voglio capire una cosa, quanto è grande, per esempio? 10 metri quadrati più il box sanitario esterno, che sarà 1x2. Per cui praticamente per fare i suoi bisogni, per andare al bagno, ogni volta deve uscire? Sì. Cioè, sì, come si fa in inverno, ma anche non in inverno, insomma, anche adesso? C'è una signora di 95, certo, di 95, certo. Deve essere sempre accompagnata quando esce oppure no? Oppure può fare da sola? No, è autonoma. È autonoma, però comunque deve uscire da casa, coprirsi, andare al bagno, che poi poverino. Bagno che sarà un sanitario di quelli là, tipo, no? Che... c'è la doccia, il lavandino, water, insomma, gliel'ho detto, sarà un 2,5 metri quadrati. Ma di umore come sta? Cioè, è arrabbiata. quando mamma è arrabbiata, cioè, bacchetta anche noi figli. La responsabilità finale di questa situazione, cioè della situazione paradossale, per cui una signora di 95 anni viene messa fuori da uno chalet. Diciamo, il primo atto, quello che ha dato inizio a tutto l'iter, è partito dal nucleo forestale dei carabinieri. Vabbè, sì. Cioè, ma io voglio capire, nella sua testa, diciamo come figlia, ma anche nella testa di sua madre, i responsabili di questa situazione chi è? La burocrazia in generale? Sono Parenzo, intanto volevo capire questo, ma ovviamente una persona di quell'età lì non deve essere messa nella condizione in cui è, ma il tipo di abuso, no? Sì. Che tipo di abuso è? Cioè, per capire, perché sennò poi... La casa è costruita su un'area edificabile che è posta però all'interno di un parco nazionale, quello dei Sibillini, quale gravano delle normative di tipo paesaggistico tali da non poter essere sanate, devono essere acquisite preventivamente. Ecco, il problema è che noi questo cavillo non lo conoscevamo, noi abbiamo costruito nella consapevolezza di poter sanare. Quindi però riconosce che c'è l'abuso, insomma. Ma no, ma che abuso è, ragazzi? No, voglio dire, adesso al di là del caso, io sono con la signora anziana sempre. Allora, lei sta utilizzando una terminologia che, per quanto aderente alla sicuramente... Abuso inconsapevole, chiamiamolo così, voglio chiamare così. Sì, ma lo chiami come vuole. Per me la signora non ha commesso nessun abuso. Ormai è troppo tardi. No, lo so, ha 95 anni, è la follia della legge, della burocrazia, tutto vero. Non si può sfrattare una signora di 95 anni. La signora Giuseppe. Ma questo lei Fattori non lo può deve... venire a dire a me, ha capito? No, perché lo dico a chi... io l'organo no, che certo, può lo decidere. Dico al vasto, alla maggioranza silenziosa, diciamo. La questione è molto semplice. In una zona che possiamo definire come la possiamo definire? Zona di guerra? Come la possiamo definire? Esattamente. Quello è un territorio ormai solo sotto l'egida degli ungulati. Gli ungulati sarebbero ungulati, i cinghiali e anche i lupi. E in una zona del genere dove è successo quello che è successo, mettersi a cavillare sulla questione paesaggistica quando ci sono delle casette, ma ci sono delle casette di legno, dai, su, poi le abbatti quando vuoi le casette di legno. No, ma su questo non c'entra niente. Finita l'emergenza, abbatti ste casette di legno. Oh, era questo che noi credevamo. Se lo Stato mi pone di fronte a 90 giorni per acquisire la concessione edilizia più altri 120 per il parere della sovrintendenza, intanto se crepa, che deve rilasciare intanto si muore. Sgarbi si è messo dalla parte di sua madre? Sì, l'ho visto il video, oltre 1 milione di visualizzazioni. Beh, amica mia, ha visto con che forza, con che... No. Sì, se la politica non dà una risposta seria in questa occasione, non venga poi nelle zone del cratere a chiedere i voti fra 4-5 mesi quando andranno le elezioni. Certo, non vengano qui. Ecco. Ma io, ridurre una povera vecchina scusi il termine, sua madre di 95 anni, anche anziana, se lucida, diciamo, anziana, a vivere in un container di 10 metri quadrati, non voglio fare il populista, mi accusano sempre di fare il populista, è una vergogna. Cioè, lo Stato la vergogna, il governo la vergogna. Facessero una deroga, facessero un decreto, fanno i decreti per le peggiori cose, signora, su, io non mi voglio scaldare, ma è così. Allora, guardi, qui c'è gente che fa lo sciopero della fame, c'ha lo sciopero della fame per lo ius soli. Cosa c'entra? Signora, cosa fa lo sciopero c'entra? Della fame per lo ius soli. No, ma non caricarla, cosa c'entra? No, Gabriella, mi dica questa cosa qua, c'è gente che fa lo sciopero della fame per lo ius soli. Risponda solo a questo. Ma guardi, che le rispondo così, che mia madre ha iniziato a fare lo sciopero della fame perché cucinare dentro un container dove anche dorme, le garantisco che non è la cosa più agevole. Una minestrina, e con una minestrina non si va lontano. Cioè, ha iniziato a fare lo sciopero della fame? Adesso lo prenda come non come una scelta di tipo politico. Ho capito, però io dico chiaramente, dentro un container di quelle dimensioni non è che si possano fare le fettuccine pasticciate, ha capito? Per cui è costretta anche a mangiare meno di quello che dovrebbe mangiare. Certo. Rischia la morte là dentro? Rischia la morte dentro quel container? Secondo me sì, ma lei è determinata comunque a restare, perché io l'ho pregata in ginocchio sabato. Di venire da voi, diciamo. Mia madre non è una senzatetto, non è una clochard. Ma perché non vuole venire da voi? Perché lei ha deciso, e in questo è determinata, è tenace e vuole assolutamente che la sua volontà sia rispettata, vuole morire lì dove è vissuta per 75 anni. Ha capito? Ma lei è consapevole? E lo Stato dovrebbe garantire, certo, questa libertà di scelta, certo, dell'individuo. Ah, sì, siamo d'accordo. Cittadino terremotato e due volte cittadino. Mentre ci sono politici che fanno lo sciopero della fame per lo Ius Soli. Ma non c'entra niente. C'è una signora di 95 anni in 10 metri quadrati da sola dentro un container sfrattata dallo Stato. Questa è la realtà, o no? È evidente a tutti che questa è la realtà e bisogna dirla questa cosa. Non sono due situazioni diverse, o no, Gabriella? Noi abbiamo questa percezione che c'è una casa con tutti i comfort a disposizione, costruita senza gravare per un centesimo sulle tasche dei contribuenti. Sì. E invece una persona di 95 anni è costretta a vivere in 10 metri quadrati, avendo appunto a disposizione tutt'altra struttura. Come lo devo chiamare io lo Stato? Ma i politici, come lo chiami? Lo definisca, come lo chiami? Come lo chiamo? Persecutore lo chiamo. E la politica come la definisce lei? Indifferente a questa cosa? L'ha chiamata qualcuno? L'ha chiamata qualcuno? Presidente della Camera? Guardi, altri politici che fanno... Per carità di Dio. È un caso, però adesso scusatevi, io capisco. E anche tutto. Marchigiana, poi il presidente della Camera potrebbe chiamare, eccola. No? O no? Esatto. Sì, beh, io me lo auguro. Me lo aspetto, ormai è un mese che ne parlano tutti i media. Ha ospitato tre capre a Montecitorio. Cosa dici? È la realtà. Cosa ha ospitato, cosa tre capre, la signora? Cosa ha ospitato dite? Tre capre a Montecitorio per la causa vegana. Una telefonata a una sua conterranea di 95 anni sfrattata si potrebbe fare o no? Non cambia niente, per carità. Io ho capito. Però magari la signora Gabriella se l'aspetta o no? Quello che io mi aspetto è che laddove coloro che noi abbiamo mandato votato in quei luoghi, sì, ecco, legiferino e quindi prendano i provvedimenti necessari nel più breve tempo possibile. Non si può procrastinare oltre una scelta che doveva essere fatta un anno fa. Le macerie nel paese di mia madre sono ancora tutte lì. Grazie, a presto. A presto. Grazie signora. Grazie a lei. Ciao, buonasera. La Zanzara. Guarda, io ti denuncio, eh. Ibrido. Sapere secondo quale cazzo di logica dovrebbe esistere un dio che ti obbliga ad amputarti il pene per questioni igieniche. Le verità di Parenzo. Parenzo, girala come vuoi tu, ma sempre il cazzo mozzato per far piacere a Dio c'hai, eh. Non è che pulizie, non pulizie, io non c'ho la minchia mozzata, il mio cazzo è pulitissimo. Per cui, vedi tu, sempre quella, Girala come vuoi tu. Allora, qualcuno mi ha detto perché i parenti della signora Giuseppina non se la prendono a casa, no? Perché non la tolgono dal container e non la portano a casa? Avete sentito nell'intervista che abbiamo fatto alla figlia che in realtà hanno rispettato la volontà di una signora anziana, vecchia, di 95 anni che vuole rimanere e morire nel posto dove è abituata, e lo Stato dovrebbe garantire questa roba qua in una situazione di emergenza, in una situazione di guerra. Ma perché la procura si è impuntata su questo vincolo paesaggistico? Ma chi cazzo se ne frega del vincolo paesaggistico? Non è che hanno costruito un monumento di cemento o una stortura con tutti gli obbrobri che ci sono in Italia? Una casetta di legno? Sì, se la prendono con una casetta di legno? Ma è chiaro che è una stortura del sistema. Dopodiché non c'entra niente lo Ius Soli, cioè come al solito è l'impegno della politica, la ruffa popolo, ma quale politica? È una legge, ma non c'entra la politica, qui c'è una legge, lo sciopero che della fame, non faccio una cosa seria, lo fa lo sciopero della fame, sulla non su queste puttanate, sulla lo nonnina. Ius Soli, cioè, la farà su una cosa che riguarda una persona singola o che riguarda una collettività? Li ma tu davvero come ragioni? Li hanno già i diritti se vivono in Italia, basta con questa puttanata. Chi ha diritti? Hanno diritto al voto, di scegliere? scegliere. Ma che c'entra? Perché tu puoi scegliere? C'entra i bambini col voto. I bambini devono sentirsi cittadini riconosciuti. Te la devi sudare la cittadinanza, non acquisita quando sei, quando hai un anno, due anni. Guarda, o tre anni o cinque, più. Basta. Se la sono sudata talmente tanto che molti di loro sono solo i sopravvissuti, perché gli altri sono morti in mare. Se la sono sudata talmente tanto che hanno commesso, hanno compiuto un viaggio lunghissimo attraversando il deserto, salendo su delle carrette del mare, ecco, e sfidando ecco la morte. Ecco la retorica. Sfidando, dai. Più sudata di così, se la sono sudata molto di più di quelli che hanno avuto il culo di nascere da questa parte del mondo. Perché tu e io, e quegli retorica, altri dai. Imbecilli che telefonano qua, hanno avuto la fortuna di nascere nella parte del mondo c'entra? Giusta, quella c'entra? Dove c'è la democrazia, che qualcuno rimette in discussione, perché sono gli stessi stronzi che vorrebbero il fascismo, peraltro. Quelli che sono contro sono quegli stessi imbecilli che qua chiamano e vorrebbero il ritorno alla dittatura, peraltro, no? Pur non avendola conosciuta molti allora, di loro. Allora, la Brambilla. Peraltro, colgo l'occasione, così Davide, finisco dai, questo. Su, e fammi andare avanti nella trasmissione. Sì, ma volevo concludere il discorso, dai. il dibattito che stiamo non facendo. Non c'è nessun dibattito qui, dai. Dicendo che semplicemente che sarò cosa? Accolto prossimamente. Ma chi se ne frega? A da casa chi? Pound. E vabbè, questo è un altro discorso interessante. È un altro tema che ma quando vai a fare questa cosa a casa Pound? Te lo dirò nel prossimo giorno. Allora, se lo dirò nei prossimi giorni, che cazzo lo dici a fare adesso? Volevo. È una cosa incredibile. Vuole fare un annuncio, ma non lo vuole fare. Ma che sei? Pino Scotto, là. No, Pino Scotto. Che sei Scotto di MDP. È una cosa incredibile. Oggi sono stati in una trasmissione dove c'era Scotto di MDP. Ti giuro su Dio, non ho capito su mia figlia che non capivo una mazza di quello che voleva dire. Niente, parlava per slogan. Ma chi cazzo li vota questi? Ma come altri, perché mica solo lui. Vi faccio sentire due pezzetti di questo Scotto. Ti giuro, non si capiva un cazzo questo Scotto, nulla. Noi vogliamo fare una cosa molto precisa, sì? Dare una casa a tutte coloro e a tutti coloro, sì? Che oggi vogliono un'alternativa vera, vera. Vogliono a un chi? Lavoro stabile, lavoro e stabile. Dignitoso, sì? Vogliono coltivare l'ecologia, sì? E non le trivelle, sì? Vogliono una democrazia della partecipazione e non dell'uomo solo al comando. La confusione, sì, certo. È di chi continua a parlare di formule e formulette politiche di cui non... Cioè tu capisci, vogliamo dare una casa a tutti, vogliamo dare lavoro stabile a tutti, ecologia e non trivelle. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Uno dice, io a un certo punto ho detto, amico mio, non ho capito una mazza, sentiamolo, faccio risentire, sarà una cosa un po' autoreferenziale, ma è così. Ho difficoltà a capire Scotto, perché capisco la campagna elettorale, ma dire sia l'ambiente e non le trivelle. Ma se tu sei limitato niente. Non è colpa mia, Cruciani. No, limitato lo tu dice fai il giornalista. Oh, scusate, fermi. Tu sei illimitato, amico mio, siamo limitati tutti. E non ne possiamo più di queste cazzate dette in televisione. Ma ripeto adesso, non me la voglio pigliare proprio con lui, ma è uguale anche per gli altri, cioè non è che è diverso. Brambilla, allora diciamo della Brambilla, la signora Brambilla. La signora Brambilla, come sapete, partito animalista, eccetera, eccetera. Berlusconi, ma dice che vuole fare una cosa trasversale, però poi dice nello stesso tempo che Renzi non lo voterà mai. Vabbè, una buffonata, lo sappiamo. Dice di avere in casa 12 cani, 35 gatti, 7 capri e 2 asinelli. Mamma. Questa è la dimostrazione del fatto che è una roba da ricchi. Cioè, non è una roba. Cioè, una roba, come ti puoi permettere di avere in casa 12 cani, 35 beh, gatti, sì, 7 sì. capri e 2 asinelli? Perché devi avere, che ne so, 100, 200 metri quadrati di. No, che dico? Terreno, 1000 metri, sì, con un terreno enorme, campagne, cose. Ricchi, per carità, nulla di male, però ricchi, abbienti, snob. Quindi in casa di Michela Brambilla ci sono al momento 12 cani e 35 gatti in casa, poi in giardino ci sono. 7 capre, 2 pecore, 2 asinelli, 3 cavalli, però io vorrei chiarire che la mia non è un'insana mania di collezionismo, sono tutti raccolti dalla strada, arrivano da situazioni di maltrattamento, io non riesco a dire no. Vabbè, ce ne frega un cazzo di questa roba qua. Poi la signora Latella le fa una domanda sul mio libro, sentiamo. Penso che non lo leggerò nemmeno sotto tortura, nel senso che Cruciani sfrutta un modello per avere popolarità e per il proprio profitto, perché questo è evidente, quindi attacca gli animalisti, non credo che gliene freghi più di tanto agli animalisti, ma gli interessa avere ascolti piuttosto che, se ora ha scritto un libro, venderlo. Cioè, spiegatemi bene, lei invece fa questa battaglia in maniera pura, non pensando alle queste cose mi fanno andare i matti, perché Parenzo da questo punto di vista mi conosce, lo sa benissimo che non è così. Sì, cioè, lei farebbe questa battaglia, ed è una battaglia pura in nome degli animali, io lo farei invece, io lo farei per il guadagno. No, tu ci credi davvero? Per la popolarità. Io vado ai matti, ragazzi, vado ai matti con questi, vado ai matti. Io voglio popolarità, perché, a parte che non è un non sarebbe un delitto. E poi scusa, lei perché cosa lo fa? Perché cosa? Per amore nei confronti degli animali? Per amore nei confronti degli animali, una che aveva gli stabilimenti per congelare il pesce? Dai. Carmine da Rimini, vai Carmine. Carmine. Carmine! Eccoci! Dai, eccoci. Forza! No, ero fuori. 5778, il numero di Palenzo. Sì, vorrei iniziare da qua. Allora? E le firme per fare la lista del popolo della Luna, visto che tutto... No, ma scusa, spiegami un attimo, dai, cerchiamo di essere più chiari. Carmine, di cosa vuoi parlare? Voglio parlare di fare una lista del popolo della Zanzara. 5.778 i numeri che servono per fare la prima lista del popolo della Zanzara. No, non lo so, amico mio, adesso vedremo. Le elezioni ancora sono lontane, dobbiamo capire come funziona. Vedremo. Ogni volta lo diciamo. È la sedia e lo sgabello che mi serve per prendere a prendere, in poche parole. No, non ho capito una mazza. Cosa c'entra i 5.778, che è la data, secondo Parenzo, che dovrebbe sostituire il 2017, con la lista della Zanzara? Cosa cazzo è? Spiegami, Carmine. Qual è il legame? Non fare il filosofo, dimmi. Servono 5.000 firme per fare il movimento. Poi bisogna vedere, perché poi bisogna fare un... Carmine, cosa vuoi? La domanda è: cosa cazzo vuoi alle 20.09? Cosa? Non mi fare perdere il flusso, non mi fare perdere quello che ho in testa. Cosa cazzo vuoi? Movimento, e io sto facendo in modo provocatorio, sto chiedendo. Vediamo, è presto. Davide da Reggio Emilia. Davide da Reggio Emilia, vai. Sei pronto? Dimmi. Buonasera. È incredibile come riesco a trattare pure quelli che in teoria vorrebbero fare la lista della Zanzara. Solo che mi annoiano, non dicono un cazzo di concreto. Nulla. Davide, Reggio Emilia, dai. Sei pronto? Dimmi. Innanzitutto volevo salutare in modo particolare Parenzo, che è un mio fratello e abbiamo una mentalità più o meno simile. Fratello, ci ho mai visti insieme. Ma qual è la mentalità simile? Perché, scusa, non ho capito. Ma una mentalità marxista, comunista. No, non sono assolutamente comunista. Io non sono mica comunista, sono un socialista liberale. Vabbè, socialista. Dai, forza, dai, Davide. Comunque, per lo Ius Soli io sono assolutamente d'accordo, perché penso che uno straniero che venga qui e che sia nato qui è giusto che abbia la cittadinanza, come poi capita in tutti gli altri paesi. Sei d'accordo? Poi non è vero che accade in tutti i paesi, tutt'altro. In tutti i paesi, civili, diciamo, non dire cazzate, tutt'altro. Paesi civili, tutt'altro. Va bene. Non è così. Comunque, Altra cosa. Adesso scegli anche gli interventi. Uno, due, tre, terzo argomento. Conti la circoncisione. Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo. No, dimmi. La penso che io la sono penso circonciso, che quindi. Sei circonciso. Dunque. E quindi in effetti è vero che c'è più igiene, diciamo. C'è più igiene. Cioè, noi abbiamo passato 3 giorni a parlare di questa cosa e tu ci chiami per dire che c'è più igiene. Io ti mando a fare in culo. Rocco anche da Roma. Io. Sì, anche tu. Benissimo. Io però più forte. Rocco da Roma, dai. Ciao, prima della caduta. Dimmi. Allora, 1.5 milioni di abitanti, secondo quello che dice Saviano, sarebbe il rischio, diciamo, toglierebbe il rischio dell'Italia di estinzione. 1.5 milioni di immigrati creerebbe l'estinzione dell'Italia nella realtà. Non lo so, adesso, l'estinzione dell'Italia per 1.5 milioni di immigrati. Nel senso che non credo proprio l'estinzione, non credo, però. No, dell'Italia in quanto popolo italiano. Ma cos'è il popolo? Ma che vuol dire? Popolo è chi? Ma basta con sta stupidaggine. Popolo è chi rispetta le leggi, chi si riconosce nello Stato di diritto, chi rispetta la Costituzione. Cosa c'entra? Quelli che telefonano qui, la maggior parte di quelli che chiamano qui, non sono popolo italiano per nulla, perché sono fascisti, fanno porcherie. Ma no, è così. Non voglio dire che fanno atti sessuali impropri, fanno scambi di copie, che quello va benissimo, non è contro la Costituzione. Ma quello lì, cos'è popolo italiano? Il popolo italiano è Donato da Varese, secondo lei? Prima di far venire qui le persone. Ma nessuno li fa venire, altra stupidaggine. Nessuno li fa venire, non è che li chiama, non è che la Boldrini telefona e dice venite. Ma da chi? Dal suo cervello malato. Li vanno a prendere. Quindi mi fanno... non dire fesserie. Ancora. Ma da dove stai chiamando? Con viva voce, Rocco? Stai chiamando con viva voce? Dal bagno, perché la moglie se lo becca ti telefona, gli tira in testa la cornetta. Con l'auricolare? Con l'auricolare? Dal bagno sta chiamando, perché giustamente si vergogna. È imbecille, con l'auricolare o no? Non sto chiamando nessun auricolare, adesso hai, ritorno. Hai adesso la moglie ti scopre, la moglie ti stacca il telefono in genere, perché le fai sempre queste telefonate. Ma perché mi piglia per il culo? No, aspetta, mi piglia per il culo, con l'auricolare era prima, capito questo coglione? Era con l'auricolare, cioè e non ha avuto, non ha manco il coraggio di dirlo, eri con l'auricolare, sì o no? No, stavo nel bagno, come ha detto lui. Forse nel bagno, ma che c'hai? Comunque, non c'avevo nessun auricolare. Che c'hai, tua moglie che ti fa un culo così se chiami la zanzara? No, sto vivo da solo, non ti preoccupare. Maurizio da Salerno, dai. Te l'avevo interdetto. Vai a fare in culo tu, imbecille. Maurizio, dai. Che bella conversazione. Stupendo, dai. Che Maurizio, bel finale di conversazione. Maurizio, dimmi. Oh. Stai parlando con me? Dai, forza, su, chi? Amico mio, dai. Maurizio da Salerno o Maurizio un altro? Maurizio da Salerno, vai, da dove? Eccoci qua. Sì. Allora, la circoncisione. Se il pisello senza cappuccio fosse meglio, la natura in qualche miliardo di anni di evoluzione ce l'avrebbe fornito così. Se ce l'ha fornito con cappuccio, evidentemente una logica ci sarà. Il ragionamento di Parenzo, purtroppo, sottende un retropensiero suo e di tanti che vogliono cambiare il mondo, che, come dire, il pensiero di Parenzo è meglio della natura, quindi quello che pensano loro è meglio di quello che ha fatto la natura. Ma io non l'ho mai pensato. Non è sbagliata come cosa questa. Non è sbagliato. No, è così, Parenzo, tu la pensi così, tu sei uno di quelli che vuole cambiare il mondo e volendo cambiare il mondo non hai rispetto per il mondo. Questa è la realtà. Vabbè, lui pensa che fai i cazzi suoi, per lui è meglio così, la sua religione dice così e dunque taglia chi sei. Non voglio farlo a nessun altro, non evangelizzo nessuno. Non evangelizzo nessuno, non esiste. Io ho detto che dal punto di vista anche della siccome è una cosa vostra che ve la siete mai. Ma nessuno chiede di farla a nessuno, le sto dicendo che negli Stati Uniti d'America, ad esempio, la maggioranza dei maschi americani sono per ragioni legate alla sanità, perché è ritenuto più igienico circa. Ma non mi ma lei tenga quella roba lì che neanche utilizza più, lei neanche sa dov'è. Io quando lo cerca, quando lo cerca, le servono le pinzette con cui si toglie le con cui amico si toglie mio, i peli sopra mio, gli occhi, quelle pinzette le lì le servono amico a lei. Mio. Gli amico aghi, mio, non gli aghetti parlo. Gli servono a lei. Inutile che lei parli amico, di uno strumento che non ha e che non utilizza. Perché? Non ne parlo perché è affamato che parla di pane. E io ringraziando ho la pancia piena. Cioè, ce, l'hai ce l'hai lungo. Ma figo. No. Però sei ben attrezzato. Lui mi vantava. Fermi di io non parlo mai di queste cose. Fermi amico tutto. Caro, io lo uso. Fermi tutto. Non me ne vanto. La zanzara. Dopo te Cruciame dici che io esagero quando gli dico che è un ebreo de merda, hai capito? Senti, non ti preoccupare fratello, siamo qui, vi aiuto io. Ma vattene a fanculo, è roba che si levano tutti i migranti da mori di fame, ma che cazzo te metti a fa? Ha capito perché sta da parte dei migranti questo e da parte dei rom? Perché si levano rom e migranti? Se muore di fame, il giornalista del cazzo. Ma qual è lo scoop giornalistico che fa? Imbecille. Giornalista radiofonico e televisivo. Ma vattene a fanculo, testa di cazzo. Testa di cazzo internazionale. Vaffanculo. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta La Zanzara. Abbracciate l'unica vera religione, il crucianesimo, e seguite i suoi comandamenti. Primo, non ascolterai altra trasmissione radiofonica al di fuori della zanzara. Secondo, non nominare mai il nome di Parenzo. Terzo, fottitene di tutte le feste. Quarto, onora puttane e trans. Quinto, mangia ogni forma animale ci sia sulla faccia della terra. Sesto, pratica il rapporto anale. Settimo, non ti scusare mai. Ottavo, commetti atti impuri a più non posso. Nono, desidera la donna d'altri. e sii contento quando gli altri desiderano la tua. Decimo, non desiderare di lavarti più di una volta a settimana. Ed ora andate e diffondete la sua parola. Cosa pazzesca. Pazzesca. Cosa, ma c'è gente che mi scrive, che mi manda messaggi vocali, c'è gente senza parole. Ti segnalo solo questo: una persona che sta ascoltando la trasmissione in macchina, come sempre, una persona che anche tu conosci, di cui non posso fare il nome, che dice: stavo ascoltando tutti quegli improperi nei tuoi confronti, parolacce, porcherie, eccetera. Inavvertitamente ha premuto il sistema Siri, quello che c'è sul telefono, e questo ho detto: ma che linguaggio? Beh, non è, cioè, capisci che ormai anche le app ormai sono capiscono il linguaggio terribile che questa trasmissione ha introdotto nell'eloquio quotidiano. Allora, vi annuncio, ragazzi, che intorno alle 20:30 chiameremo il professor Gustavo Zagrebelsky. No, Susanna, la prostituta della Salaria. Parleremo del Rosatè. Ma no, perché tutte ho le parlato prima con Susanna. Non mi perché non, allora, mi stupisci? Sorprendimi una volta. No, ragazzi, è molto importante questa cosa qua. Susanna, la prostituta della Salaria, ha subito nei giorni scorsi un'aggressione. Un'aggressione pesante. Prima mi spiegava al telefono che è stata veramente una cosa seria, però è tornata a battere sulla Salaria. È tornata, la notizia è questa: Susanna pestata è tornata a battere sulla Salaria. Ci racconterà nei dettagli, amica nostra, amica mia in particolare, quello che è accaduto e cosa le ha fatto questo signore che poi è stato identificato. Io manco lo sapevo, identificato e arrestato, sembra, magari lei ce lo confermerà dopo. Grande, prima giornalismo d'inchiesta. Assolutamente, sì. Cioè, chi inchiesta è che ha scoperto Susanna la prostituta? Tu l'hai scoperta? No, per carità, te la lascio tutta. Silvio da Vicenza, vai Silvio, poi Filippo da Milano, Gigna, come cazzo si chiama questo? No, iniziamo, scusami Silvio, iniziamo da questa qua che non capisco il nome, però me l'hanno scritto male. Gigna, come minchia ti chiami? Scusami. Gigna, ma io voglio parlare con Parenzo. Guarda, tu mi sei francamente odioso. No, e ma secondo me sei pure fascista. No, io fascista, guarda. No, fascista no, però gli Gigna, piace per capito... amor di libertà tutti sti fascisti che chiamano. Non ho capito, Gigna che vuol dire Gigna? Che nome è Gigna? Gigna, mi chiamo Gigna, appunto. Ma che nome è Gigna? Fammi non infastidirla, non infastidirla. È il più bello del tuo. Ma Gigna, no, ma io Gigna. Mio è un nome normale, tradizionale, classico. Gigna, che nome è? Sei calmo, Gigna. Gigna, ma che vuol dire Gigna? Ma cosa vuol dire Gigna? Niente, ma che vuol dire? Ma uno si può chiamare Gigna? Guarda, non voglio parlare di ragazzi, devo dire una cosa, Gigna, ti do subito la parola. Devo dire che oggi è anche il 50° anniversario della morte di quell'assassino, uccisore e massacratore di omosessuali che era Che Guevara, 50° anniversario. Così mi pare eccessivo. È uno dei più grandi trucidatori di omosessuali, di un dittatore schifo, invece pare di Che Guevara, un uomo che ha anche contribuito alla liberazione del popolo, ha ammazzato un sacco di gente, il signor Che Guevara, effetti collaterali. No, ha ammazzato un sacco di omosessuali, ma ha fatto una rivoluzione, ma non è del centro. Ma esatto, brava. Vabbè, Gigna, dimmi. Posso parlare con Parenzo? Eccomi, ecco, cara. Parenzo, ecco. Un consiglio, eccoci. Guarda. No, io sono tutta dalla tua parte. Volevo si era capito. In tante, ragazze, lo si so, era capito, siete in tante. Si era capito, siete in tante. Si capisce da come approccia. No, ma si era capito, Gigna, però andiamo capisce assodo, anche dai. Dall'eleganza, dalla tranquillità. Ma sei tu che divaghi, eh? Gigna, volevo consigliare semplicemente a Parenzo di cambiare trasmissione. No, quelli sono cazzi suoi, signora Gigna. Quelli, scusi, sono cazzi. Fallo parlare. Posso? È un'amica, certo. Ma non è amica, non la conosci nemmeno questa Gigna. Da sincera democratica, da persona che condivide i valori, radio, ecco, sì, che partito voti, ecco. Tu Gigna, senti che gentile, che non è importante, è gentile, è il partito dell'educazione, voi a sinistra, beta, Savassa non credo che nemmeno che sia segreto il voto, assolutamente non sono mai creduto. Gigna non comunque, esiste sto nome Parenzo, Gigna da nessuna parte esiste Gigna, non Gigna qua. Lasciala Parenzo, tranquilla, ma è un demerito, guarda, per te lavorare, guarda, sono qui però Cruciani per sostenere le nostre posizioni, perché siamo in tanti, è una missione, non puoi lasciare spazio, te lo dico, guarda, anch'io alle volte sto, ma non puoi lasciare spazio a questo qui, alle quinte colonne, dalle vostre parti, a questo mainstream imperante di cattivismo. Dobbiamo combatterlo con sì, la nostra presenza qui cattivo, ogni giorno. Ma sì, un cazzo, sì, solo, quell'altra che dice sì. Solo dice sì. Limitato e brava, limitato sarai tu. Individuo. Ma limitato sarai tu, quanti anni hai? Brava, guarda questa parlare. Maledetta qua, lui, Gigna, limitato. Ma lo, ma lo dice tuo figlio, lui, quanti anni hai? Ce l'ha con Saviano. Vabbè, io non ce l'ho con Saviano. Non ha importanza l'età. ce l'ha con Saviano. Non ce l'ha con Saviano per quello che ha detto, mica con Saviano in generale. Posso contestare una frase di Saviano? Oppure mi devi dare il permesso tu, Gigna? Non aggredirla. Gigna. Ma perché la prendi in giro per il nome? Non ma guarda che sei. Diverse, guarda. No, ma sto cercando Gigna, non manco trovo il nome. La vuoi far parlare tranquillamente? Ma chi ce ne frega del nome? Comunque, Parigi, Torino, grande città. Ma sono cazzi suoi, ma saranno affari suoi. Comunque, si capisce lo spirito di Torino. Questo tipo qua. No, lo so, guarda, però sono qui ancora per un po' per combattere, per difendere le posizioni. Torino, grande città di Gobetti, del pensiero liberale. No, lo voglio dire a lei, città del professor Zagrebelsky. Gigna, ti posso salutare o no? C'entra quanto c'entra il mio nome. Sì, ma ti posso salutare oppure vuoi ancora fare slinguare un po' Parenzo, lisciare il pelo ancora a Parenzo? Con Saviano, con Camilleri. Qual è il problema? Qual è il problema? Nemmeno della loro dito mignolo. Sì, ma tu mi devi pulire le scarpe, capito? Tu mi devi, perché non mi pulisci le scarpe? Pulisci le scarpe. Perché non mi pulisci le scarpe con la saliva? Sputi sulle scarpe e me la pulisci con la saliva. Tu così. Ma cosa credi di essere scritto? Senti, io contesto le persone, io contesto le persone per quello che dicono, non in quanto Camilleri, in quanto Saviano. Se non l'hai capito alla tua veneranda età, cara Gigna, ecco, da Torino, la colpa non è mia, la colpa non è mia. Se non hai capito e sei tu limitata, Filippo da Milano, dai, non Gigna, dagli il fianco. Ma scusa, non ho capito, ma hai una vita tua a casa, una vita normale? Hai una vita normale, un marito? Ce l'hai un marito? Ho 3 mariti. Beh, quello sì, vabbè, non dimmi cazzata adesso. Se sei parenziana, nulla, non hai 3 mariti. Nulla. C'entra, voglio capire a che livello di frustrazione è la tua vita per dire a me che io non mi posso permettere di attaccare Saviano o Camilleri. Ma non mi pare proprio, guarda. Ti nota da come parli. Sì, che sei il mio psicologo? Collerico. Che fai, la psichiatra? Ecco. Tu dovresti andare dallo psicologo, brava. Non è detto che non comunque, Parenzo, guarda, questa non vuole stare sola. Bisogna rimanere questa qui, non vuole stare sola, questa qua bisogna non riesce qui a stare sola, non riesce a sopportare, ciao, l'idea, Parenzo, di stare sola. Filippo da Milano, dai, ciao, Filippo, cara, grazie di esserci, grazie. Ciao Giuseppe, ciao David, dimmi dai. Allora, innanzitutto volevo dare tutto il mio supporto a David, continua a combattere per la cultura, l'intelligenza vincerà sempre su questi luridi che chiamano la cultura in trasmissione. Quest'altro è arrivato, la no cultura. Lo so, ma siete aspetta, in tanti. Già che mi rivolgo a David, volevo fargli un altro complimento stavolta per la sua compagna, perché qualche mese fa sei venuto a Pordenone, ma non sei però dalla maggioranza silenziosa. Con l'ottimo Feltri, sì, intervistato dall'ottimo. Vabbè, che Filippo cazzo Fatti vuoi? Sono già le 20:30, ah, Filippo, sì, non venuto, ci scassare i coglioni a quest'ora, dai, forza, non ci fare due passi. Ho avuto nelle prime file accanto alla tua signora una creatura squisita, bellissima, meravigliosa, complimenti. Ti saluto e ti mando a fare il culo, ciao, per me. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Aiutateci a riportare il sorriso sul volto di Cruciani, a farlo lavare tutti i giorni, a fargli apprezzare un po' la vita. Un uomo tanto sporco fuori quanto stronzo dentro, un ammasso di rabbia e merda, un uomo che ama provocare solo per il gusto di farlo, che si eccita ai racconti di Vittorio e si spegne alla notizia di un immigrato buono. Aiutiamo Cruciani a uscire da quest'incubo. Dove c'è Cruciani, c'è rabbia. Allora ragazzi, sì, è vero, c'è anche rabbia dentro questo involucro, c'è rabbia in queste ore per quello che sta accadendo in Brasile, lo dico alla fine della trasmissione perché non mi va di rompere i coglioni su una cosa su cui sembro fissato, ma è una cosa di cui si discute ovviamente in tutto il mondo, in Italia, forse non nelle piazze, non nei su bar. Battisti, ancora col terrorista. Esattamente, stiamo. Allora ragazzi, la questione è questa, questi maledetti brasiliani, vi pare normale che un assassino, un pluriomicida, un ergastolano italiano venga liberato? Venga liberato dalla polizia brasiliana perché è stato fermato e non c'è il modo per trattenerlo in carcere per il reato che avrebbe commesso, che era quello di detenzione di moneta, qui non è da... Ma è incredibile, è incredibile. È stato liberato e abbrindato all'aeroporto. Però non ho sentito la tua stessa indignazione per il caso Regeni verso l'Egitto. È un caso diverso. Infatti lì è morto. È un caso diverso. Morto un nostro ma non cittadino, una mazza, studente dai, italiano. Su, non c'entra una no, io sono d'accordo con te. Ci vogliono misure fortissime nei confronti del Brasile. Ma non ho sentito da parte tua la stessa indignazione contro l'Egitto guidato ma da cosa Al-Sisi. C'entra? Ma che... Non ho visto la tua indignazione. Quindi bisogna incazzarsi pure con i servizi inglesi in quel caso. Con non i servizi inglesi. Non ho sentito. In ogni caso, ragazzi, chiamiamo Susanna, la puttana in bicicletta sulla Salaria, nostra amica aggredita nei giorni scorsi. Nostra, io mai conosciuta. Nostra amica, amica della Zanzara. Pronto? Susanna, amica mia. Giuseppe. Tesoro, ma che ti è successo? Spiegami un po'. Guarda, una cosa bruttissima proprio, guarda. No, ma lo so, ho letto dai giornali che c'è stata una specie di aggressione, ma non violenza, non violenza sessuale. No, no, assolutamente. È arrivato? È arrivato uno stronzo, sì. Una faccia che non era tanto raccomandabile, però io... Ma lì sulla Salaria? Sì, qua dove lavoro io. Cioè, come cliente praticamente? Come cliente, lui si è avvicinato quanto, gli ho detto quanto, sì. C'aveva un motorino scuro, sì. L'ha parcheggiato lì nella piazzola dove lavoro io. Sì. Poi è entrato, mi ha detto, ma non ce l'hai una cosa per sdraiarci? Ho detto, no, guarda, io qui ho il tavolo con la sedia. Poi mi sono girata per appoggiare la borsa sulla sedia, mi ha dato un cazzotto dietro la schiena e mi ha buttato per terra. Ma che voleva fare? Ti voleva rapinare? Che voleva fare? Appunto, lui voleva prima mettermi paura. Infatti, cioè, non ho capito perché tutta questa violenza. Io con questo cazzotto, certo che mi voleva rapinare, lui voleva i soldi. Però voleva pure divertirsi, ovviamente. E quindi, ovviamente, certo, mi ha anche scopata, è logico. Cioè, allora ti ha violentato? Sì, certo, però non l'ha fatto, cioè, lui non è stato violento nell'atto sessuale. Assolutamente, lui si è messo il profilattico, tranquillo. E tu che hai fatto? Scusa, tu hai avuto paura e dunque io ti... Io ero terrorizzata, lui mi ha buttata per terra, io ho cominciato a gridare aiuto, aiuto, aiuto, aiuto, volevo scappare, volevo, guarda, lo combattevo in tutti i modi, però lui, come ho cominciato a dire aiuto, aiuto, ha cominciato a riempirmi la faccia di cazzotti forti, mi ha spaccato il naso, mamma, la mandibola, la bocca... Poi mi ha sfilato, mi ha sfogliata nuda, mi ha buttato per terra, sui sassi, tutto sporco. Cioè, mi voleva baciare col naso insanguinato, cioè questo sta male proprio. Allora poi quando ho capito che era mezzo matto questo e gli ho detto guarda per favore non mi uccidere, io ho due figli, lasciami stare, prenditi i soldi, fai quello che cazzo ti pare. Alla fine poi io ho cercato di tranquillizzarlo perché questo qua voleva ammazzarmi di botte. Guarda, mi ha spaccato una mano, mi ha rotto un dito, mi ha fratturato una costola. Ma stava terribile. Io non ho capito come è finita. Ma tu non sai come ha ridotto una sabato. Ma lo stesso? È lo stesso, ne ha fatte fuori 5. Ma lo hanno individuato? Certo, l'hanno arrestato. Lo sai in quanti erano qua a girare? Tantissimi, tutti in borghese. Lo dobbiamo prendere. Perché questo stronzo ancora girava qua indisturbato, tranquillo, voleva farci tutte le puttane che stanno qua, Salaria, frati fiscali, fidene. Ma io non ho capito una cosa, scusa, nel momento in cui questo qua ti ha picchiato eccetera, poi a un certo punto ha voluto avere un rapporto sessuale diciamo normale. Sì, tranquillo, lui si è messo il profilattico, mi ha girata, mi ha presa e poi mi voleva pure baciare. Quello è l'assurdo. Vabbè, quanti soldi ti ha preso? Qua è la cosa minore, sì, però chi se ne frega. Sì, no, ha preso bene lo stronzo, ha preso bene. Cioè, 1000 euro, quanto ti ha preso? No, 300-400 euro, ma insomma, senti. Vabbè, certo, che stai a scherzare? L'incasso della giornata. Chi se ne frega dei soldi? Cioè, ma mi stava ammazzando, mi ha messo da dietro, mi ha preso, mi ha messo le mani alla gola, mi voleva ammazzare, strozzare. Mamma mia. No, ma aspetta, non è finita. Cioè, vedi, questo conferma che è un lavoro pericolosissimo, cioè questo voglio dire alla signora. Già Susanna con lavoro pericoloso, non c'è bisogno di dire. Ma voglio dire, cara, è un lavoro pericoloso, signora, vede, perché questi miserabili che vanno a prostitute sono anche violenti. Ma questi sono matti, non sono gente che va a prostitute. No, beh, uno che ha un impulso sessuale come questo è un matto, ragazzi. Da 5 anni. anni, è io pericoloso. Sto fatto la strada da 5 anni, sono tutti i clienti per bene che lavorano, sposati, no, single, italiani e stranieri. Cioè, alcuni sono dei maiali. È il primo, pezzo di merda che viene qua a fare sto casino, e neanche nessun'altra puttana l'aveva mai visto questo. No, ma è così, dai, su. No, ma è chiaro che in quell'ambiente lì è un ambiente così. Ma non è vero, non è vero, perché sono... A fronte di un Cruciani c'è gente, a fronte di uno, un Cruciani, dico Cruciani, dico per dire, c'entra Cruciani. Il cliente tipo, a fronte di un Cruciani ci sono però appunto dei criminali, ma perché quell'ambiente lì è un ambiente di criminali, ragazza mia, mi dispiace, vero, te lo devo dire. Non è vero, che ambiente di criminali, ma quando mai? Vabbè, insomma, guarda, che volevi dire? È successo a tutte le ragazze, purtroppo. Io ho fatto amicizia tutte le rumene qua, e quasi a tutte è successo una volta nella vita una cosa così, sono state picchiate pure incinta. Ma spiegami una cosa, che stavi dicendo prima, non è finita? Che cosa è successo poi? Non è finita, poi dopo, quando ha finito, ha preso il profilattico, mi sembra che l'ha buttato, l'ha preso col fazzoletto, l'ha nascosto, cioè lui ha calcolato tutto, perché poi non l'hanno trovato questo profilattico. E quindi, perché è venuta la scientifica, hanno fatto tutte le ricerche. E quindi poi dopo questo, non contento, mi ha preso i soldi, poi fortunatamente mi ha lasciato il documento, le chiavi di casa e la scheda del telefono, perché aveva preso il telefono mio. E poi dopo ha preso i lacci delle mie scarpe da ginnastica e mi ha legato forte i polsi all'ombrellone e le caviglie alla sedia. E perché? Nuda per terra, mi ha lasciato così, ha detto: "Se urli ti ammazzo". Poi mi ha messo, mi spingeva, guarda, io mai nella vita ho avuto una violenza, ma quanto un uomo può essere forte quando vuole violentare una donna, appunto, è appunto una cosa allucinante. Questo è il punto, brava, ma esattamente, no, questo, una vergogna, questo è un ambiente mal frequentato, ma è non evidente, c'entra niente, dai. Non c'entra, c'entra e come. Scusami, Susanna, nonostante questo, no, sei tornato. È la prima volta che mi capita questa cosa. Io ho dei clienti normalissimi che vengono da 5 anni, certo, tranquilli. Certo, nonostante questo sei tornata a battere, mi sembra, perché lei... Certo che sono tornata a lavorare. Certo, perché adesso questo stronzo l'hanno arrestato, l'hanno portato dentro, basta. E non hai paura? Io ho fatto il riconoscimento, sono venuti. Ma sì che ho paura, prima è venuto uno straniero e con la macchina e gli ho detto che no. E io sto scartando, purtroppo adesso io ho lo shock. Vai a sensazione, vai a sensazione, certo. Ma io adesso ho paura quando vedo queste facce così losche. No, mando via tutto. Però resti sulla strada lo stesso. Resto qua, perché ormai qua mi conoscono tutti, arrivano tranquilla, io qua c'ho il lavoro. E poi hai bisogno ormai di lavorare? Io ho bisogno di lavorare, ho due figli, sono una mamma sola e io sto poverina, lo so, per aiutare bisogna, i miei figli. Io, bisogna trovarle un altro lavoro. Bisogna io trovarle parento, un altro lavoro. Parento, io ho fatto le pulizie, una vita. Ti stanchi da morire, ti pagano pochissimo, ti licenziano all'improvviso. Non ma lo so, ma è un delirio, ma questo sesso io da strada giuro, attrae anche questi personaggi schifosi, certo, putridi. Certo, l'ambiente certo è questo, ragazzi. La prostituzione porta anche a questo ambiente. Ma ti possono menare anche dentro casa, dai, ti possono menare anche dentro casa. Ecco l'altro. No, ma le ripeto, a fronte di un cliente come Cruciani, che può essere magari sporco, ma pulito nell'animo, però sporco fuori fisicamente, c'entra come? Cruciani è favoloso, perché è sincero. No, ma lo so che è uno di quelli che... Lei è stata, no, con Cruciani? Che... Ma non è vero, non c'è... Che non mi ha mai conosciuto. Esatto. Vabbè, adesso dovete dire così per forza, ma insomma, poco ma giustamente la finzione della radio, però, ma finta di non conoscervi. Però, tolta la finzione della radio, perché vi conoscete perfettamente, perché quello ogni volta mi dice vado a Sky, adesso ho capito perché va a Sky il signorino, ogni volta dice vado a Mediaset, ora dice vado a Sky, io accendo Sky e non lo vedo mai, dico ma chissà come mai, e invece va dalla sua amichetta lì da lei, va a pagare. Allora, no, però la cosa che voglio dire a Susanna è questa, nonostante le ferite, perché io penso che tu... Io sto le fratture. Nonostante le fratture continui a battere. Però una mamma con due figli, con un pensiero grande, perché il padre è inesistente, ha la forza di tornare sulla strada e di combattere il dolore e di sorridere. E, e poi mi arrivano i miei clienti, quindi io lavoro. Ma io voglio capire una cosa, che c'hai addosso? Le fratture dove ce l'hai? Cioè, se una... Io ho la frattura alla mano e la frattura alla costola vicino al seno. Ma come cazzo fai a lavorare così, scusami? Ma ce la faccio. Cioè, con tutte le fratture, nonostante questo, sei per strada, come sentiamo adesso dalle macchine a battere, vabbè. Un abbraccio, Susanna. Non ti arrendere. Incredibilmente forte di testa e fisicamente, e soprattutto lo faccio per i figli. Sei una puttana forte. Io sono una grande troia e ci tengo a dirlo. Beh, perché io sono fiera, sono una troia amore, piena d'amore da dare a tutto il mondo. Ti abbraccio. Vabbè. Viva Susanna, non la toccate! Non la toccate! Che quanti anni aveva sto stronzo? Quanti anni aveva sto stronzo? 20, 22, 25. Ma che era italiano? Era rumeno, purtroppo. Rumeno, vabbè, che devi fare? È così. Però non è per essere... Ragazzi, non la toccate, perché qui c'è il baluardo della difesa di Susanna. Cioè, qui... Ma porca miseria, io do tanto all'umanità. Che cazzo. Ciao, bella. Ciao. Beh, amico mio, qui terribile. Si difendono anche le puttane. Hai visto che storia terribile questa qua? Una storia incredibile. Una storia incredibile fatta di prostituzione, di difficoltà, di una persona con i coglioni che, nonostante il fatto che sia stata picchiata con fratture eccetera, continua a battere la strada perché vuole guadagnare, perché non è... Infatti va tirata fuori da quell'inferno. Ma magari, se lei vuole stare là, Andrea da Napoli, vai Andrea, dimmi Andrea. Poi, ciao Giuseppe, ciao David. A proposito di Napoli, della Campania, oggi c'è da dire una notizia che mi sono scordato, Cioè, hai saputo di quei ciclisti francesi che hanno fatto il giro del mondo, capitano a Caserta e gli fottono la bicicletta? Sì, sì. Poi uno ha i pregiudizi, poi uno dice che ha i pregiudizi. Questi girano il mondo, bicicletta, eccetera. A una di questi, erano in due forse, non mi ricordo se era da solo in due, arrivano a Caserta e gli fottono la bici. Ma vaffanculo, va. Pazzesco. Dai Andrea, dimmi. Quindi fotto la bici, no, ma io dico solo questo. Poi uno è, vuol dire, non, beh, non è curioso, non, hanno girato il mondo, l'India, la Cina, tutto il mondo, tutto, arrivano qua, arrivano a Caserta, te fottono la bici, no, vabbè, se gliela fottevano invece a Frosinone non la riportavi nemmeno, guarda caso a Frosinone non gliela non fregata, l'ho riportata però. Io ne parlano tutti, imbecille, ne parlano, sì, tutti, vabbè, imbecille sempre gli stronzi che ti chiamano per idolatrarti e quegli altri reazionari stronzi, ovviamente non io quando qualcuno mi chiama per idolatrarmi, purtroppo il caso ha voluto che gliel'hanno fregata lì la bicicletta, quando mi chiamano per idolatrarmi chiudo il microfono, lo sai che non mi piacciono i complimenti, no? Vabbè, comunque anche stasera hai dato sfoggio alla tua maleducazione ad ampio spettro, direi. E in che senso, scusami? Prendendo per il sedere una signora anche di una certa età, dicendomi prima di tutto sul nome, sì, che non si capisce. Beh, perché effettivamente non lo capisco, tu hai capito perché uno si chiama Gigna? Che c'entra? L'hai capito? E tu invece chi sei? Il giudice massimo dei nomi? No, li, ma non ho capito il nome Gigna. No, non riuscivo a capire cosa significasse, da che cosa derivava Gigna. Ma per niente, l'hai presa per il culo ampiamente. L'ho presa per il culo. E allora sei il solito coglione, questa è la verità. Andrea, vatti a fare una bella tisana, una tisanina, va. Tisanina alle 20:50, fa ancora freddo, fa ancora caldo. Come, scusa? Poi te la butto in testa la tisana, così te lavi i capelli. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Ma cerca di essere un po' più veloce, un po' più rapido, un po' più pronto alle battute, un po' più cazzuto. Non è niente da dire, tranne dire che sono un maleducato, ho trattato male la nonnina, la vecchia, certo, la Gigna. La vecchia, vedi, un'altra volta Gigna, il cafone. Hai detto vicino alla signora, puliscimi le scarpe con lo sputo. Sì, ho detto sì, tu mi devi pulire, siccome lei ha detto una cosa. Beh, non hai capito il contesto, amico mio, devo chiudere. No, ti abbraccio, capito, ti bacio, vigliacco, ti abbraccio, ti bacio vecchie, e ti chiamo domani. E ti chiamo domani, tranquillo. Tranquillo. Benissimo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.